30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Sull'acqua pubblica serve un approfondimento a livello legislativo, dice in settimana il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, riprendendo una dichiarazione del sottosegretario Stefano Saglia. Dopo il nucleare il governo sta lavorando ad un provvedimento per far decadere anche il referendum contro la privatizzazione dell'acqua, come confermano le dichiarazioni di Saglia e di Romani, risponde il leader dei Verdi Angelo Bonelli, aggiungendo: è in atto un gravissimo esproprio di democrazia e dei diritti che la Costituzione assegna ai cittadini attraverso lo strumento del referendum. Il governo sta rubando agli italiani il diritto di esprimersi direttamente su due questioni, acqua pubblica e nucleare, vitali per il futuro del paese. 30 minuti in cronaca. Buonasera cari ascoltatori, benvenuti all'appuntamento di 30 minuti in cronaca. Dunque questa sera parliamo d'acqua. Lo facciamo con Antonio Massaruto. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti. Allora, Antonio Massaruto insegna politiche economiche ed economia pubblica all'Università di Udine, ma è anche il direttore di ricerca allo IEF, l'Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente, all'Università Bocconi di Milano. Nel 2008 lei ha già pubblicato L'acqua, un titolo, come dire, chiaro sulla materia per il Murino. Ora torna sul tema che segue da molti anni, pubblicando sempre per la serie contemporanea del Mulino il saggio intitolato Privati dell'acqua? Punto di domanda. Tra bene comune e mercato. Ecco, questo per inquadrare il nostro ospite che segue queste tematiche da molti anni, che ne parleremo poi, ritiene, perché emerge fortemente dal suo lavoro, dal suo saggio, che ci sia un enorme difetto di comunicazione cui i giornalisti contribuiscono nel, come dire, intorbidire le acque, scusate il gioco di parole. E allora stasera cerchiamo di chiarirci un po' le idee. Facciamolo partendo, professore, dal voto del 12 e 13 giugno, che vuole essere uno stop a un meccanismo legislativo che dopo la riforma del 2008 viaggia in discesa, così viene definito da molti oppositori, verso la privatizzazione dei servizi idrici. È questo lo scopo del referendum? Lo scopo dichiarato del referendum sicuramente è questo. Io vorrei discendere un attimo quello che è il significato, diciamo così, tecnico dei due quesiti referendari rispetto a quello che è il significato politico che i promotori gli hanno attribuito. Come sappiamo, in Italia il referendum è soltanto abrogativo, quindi gioco forza, chi vuol fare una campagna referendaria deve costruire un quesito in negativo per poter affermare qualcosa in positivo. Se noi ci fermiamo a quello che è il significato strettamente tecnico del quesito, la sua portata forse non è così rivoluzionaria e dirompente come alcuni vorrebbero. Ecco, quesiti dunque, sono due i quesiti. Da una parte l'abrogazione dell'articolo che prevede l'affidamento ai privati della gestione del servizio pubblico, dall'altro l'abrogazione del comma che dispone che la tariffa sia adeguata alla remunerazione del capitale. Ce li spiega? Ecco, appunto, questi due quesiti sono stati interpretati rispettivamente, il primo come il no alla privatizzazione dell'acqua, il secondo come il no al profitto nell'erogazione dell'acqua. In entrambi i casi non è proprio così, nel senso che bisogna fare forse una brevissima cronistoria. Prima di questa legge che il referendum vorrebbe abrogare, gli enti locali che sono responsabili di fornire il servizio idrico pubblico avevano a disposizione un'ampia gamma di scelte organizzative che spaziavano dalla società pubblica ad affidamento diretto, cosiddetto in-house, all'affidamento in concessione a imprese private con gara, e passando per la società mista, quindi un meccanismo, diciamo, intermedio fra i due. E fra queste tre scelte c'era una sorta di pari opportunità, nel senso che il comune sceglieva con totale libertà e bandiva una gara soltanto nel caso in cui intendesse rivolgersi al mercato. La legge, l'articolo cosiddetto 23 bis della legge 112, e poi modificato dal decreto del 2009, in sostanza modifica questo quadro, obbligando il comune ad andare in gara in ogni caso, quindi a far partecipare eventualmente alla gara la sua azienda prima di darle l'affidamento, e poi escogita una serie di scorciatoie, chiamiamole così, in base ai quali il comune che non volesse fare la gara può eventualmente non farla, mantenendo le cose come stanno, a certe condizioni, e una di queste condizioni, per esempio nel caso delle società pubbliche in house, è quella di cedere al mercato il 40% del capitale di questa società prendendo un socio privato industriale che dovrebbe puntellare, diciamo così, la gestione pubblica. Ecco, sulla gestione cosiddetta in-house ci sono state parecchie polemiche. Allora, approfondiamo un attimo questo aspetto. Un comune è nelle condizioni di affidare senza una gara un servizio di gestione internamente, significa questo? Sì, questo dell'affidamento in-house è una dizione che viene dal diritto europeo, anzi smontiamo subito una delle leggende urbane che si sono create intorno a questa legge. Il fatto stesso che sia stata varata dal Ministro delle Politiche Comunitarie fa pensare ad alcuni che sia stata introdotta in attuazione di una qualche politica europea. In realtà non è così, nel senso che in Europa l'affidamento in-house è pienamente legittimo. L'ente pubblico ha totale discrezionalità nel decidere se affidare a se stesso o a una propria organizzazione la gestione di un servizio oppure affidarla a terzi. L'unica cosa che non può fare è tenere i piedi in due staffe, ossia affidare direttamente ad imprese pubbliche di sua proprietà che poi a loro volta si muovono sul mercato proponendosi come gestori di altre realtà territoriali. O si fa l'una cosa o si fa l'altra, questa è la filosofia dello strumento della in-house, che ripeto in Europa è pienamente legittimo, non solo pienamente legittimo ma è anche pienamente utilizzato in moltissimi paesi dove la gestione pubblica è largamente maggioritaria. Quindi insomma la gestione da parte dei comuni diretta non è in quanto tale una procedura messa in discussione dall'Europa, noi siamo soliti ormai riferirci sempre all'Europa quasi nel cercare una patente di legittimità a ciò che facciamo. Esattamente, il nostro legislatore va oltre, peraltro ne ha pieno diritto, cioè non è certamente vietato andare oltre. E andare oltre in questo caso significa che l'affidamento diretto dovrebbe essere, secondo la nostra legge attuale, subordinato al passaggio attraverso una gara. Quindi questo vuol dire che il comune dovrebbe mandare una gara, alla gara potrebbe partecipare anche l'azienda di proprietà di questo stesso comune, confrontandosi con le altre il comune poi sceglie. Dico subito anche un'altra cosa, che si tratterebbe di una gara abbastanza, sono quelle tipo di gare che noi economisti chiamiamo concorsi di bellezza, cioè concorsi di bellezza. Nel senso gare con forte discrezionalità di aggiudicazione da parte del soggetto aggiudicante, quindi non gare in busta chiusa la migliore offerta per capirci, ma gare in cui l'elemento di giudizio estetico da parte dell'ente pubblico su quella che è l'offerta migliore rimane comunque molto discrezionale, e quindi io mi meraviglio che alcuni ci stiano anche preoccupando di cosa potrebbe succedere nel caso in cui il comune mandasse la sua azienda in gara con le altre. È un concorso di bellezza in cui partecipa anche la figlia del banditore e il banditore decide i criteri con i quali si aggiudica la palma della più bella. Quindi chi possiede buone aziende pubbliche e non ha intenzione di disfarsene, in generale non dovrebbe avere nulla da temere, se non il fastidio di dover bandire una gara. Ecco, il tema centrale, almeno quando poi arriva al dibattito pubblico, è: l'acqua è un bene collettivo, pubblico, non può essere privatizzato. L'immagine che se ne ricava è quella di fatto di un rubinetto che improvvisamente passa a una gestione privata e che come tale il gestore privato ha tutto l'interesse a fare pagare il più caro possibile. A questo si associa il fatto, e sono dati che eventualmente diciamo mi aiuterà a confutare, che i prezzi dell'acqua sono già in crescita da alcuni anni. Allora, cosa c'è di vero in questa preoccupazione? Ecco, diciamo, lei ha riassunto molto bene quello che è il bastone, diciamo, che è stato dato in pasto all'opinione pubblica. Sicuramente le tariffe sono molto aumentate negli ultimi anni e stanno ancora aumentando e continueranno ad aumentare. Però l'equazione che molti fanno, tariffe che aumentano, profitto dei privati, è del tutto fuorviante. Le tariffe aumentano per un altro motivo, che è il fatto che una spesa che è stata per un secolo circa addossata alla fiscalità generale, e parlo soprattutto degli investimenti, ora sta transitando invece verso la finanza tariffaria, e quindi per forza di cose saranno le tariffe pagate dagli utenti a dover sostenere il peso del costo del servizio. Cioè, mi sta dicendo che prima lo pagavamo senza vederlo? Prima lo pagavamo come contribuenti, certo. E ora dobbiamo pagarlo come utenti del servizio. Quindi non è colpa dei privati, colpa della privatizzazione, colpa del profitto se le tariffe stanno aumentando, ma è colpa del fatto che la fiscalità generale non è più in condizione di poter sopportare questo tipo di oneri. Altre cose importanti da fare, mi verrebbe da dire, dalla sanità al welfare, ai servizi che non possono davvero fare a meno di una parte della fiscalità generale. Questo è un servizio che magari nelle fasi di lo sviluppo di un paese ha bisogno della fiscalità generale, della solidarietà, ma regime come è adesso, secondo me in un paese sviluppato come l'Italia l'utente può tranquillamente reggere una spesa che, non dimentichiamolo, no, per quanto crescano le tariffe, sta parlando di qualcosa nell'ordine dei 100 euro all'anno pro capite, cioè non una cifra tale da poter sconvolgere il bilancio di nessuno. Se c'è qualcuno che è troppo povero per potercelo permettere, sicuramente bisogna intervenire con altri strumenti, ma complessivamente in media mi sembra che sia una cosa del tutto sostenibile. Cioè lei sostiene che diciamo non è per il fatto che sia indispensabile, perché allora effettivamente potremmo usare questo ragionamento per il pane, per la pasta, per tutta una serie di prodotti, ma il fatto che in questo caso sia un servizio che deve essere coperto nei costi dalle tariffe. Ecco, sulle tariffe gli italiani hanno avuto anche qualche brutta esperienza. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, questa sera con Antonio Massaruto. Lo ricordo, Antonio Massaruto è professore, insegna politica economica ed economia pubblica all'Università di Udine. Da anni segue, studia il mercato dell'acqua, naturalmente non solo in Italia. Ripartiamo da una questione. Privatizzazione nel settore dell'acqua significa perdita di controllo della gestione di questo evidente bene, come dire, bene che è evidentemente centrale per la vita di tutti noi? Allora, appunto, no, questo è forse l'equivoco di fondo su cui si fonda anche molto delle paure che si sono diffuse fra la gente. Io ho intitolato un capitolo del mio libro L'idraulico della città, no? Per sottolineare il fatto che quello di cui stiamo parlando non è tanto l'eventualità che l'acqua diventi dei privati, o peggio ancora che si rinunci a erogare l'acqua in una logica di servizio pubblico, questo è sacrosanto e non è assolutamente in discussione. Tuttavia, così come avviene a casa nostra, quando abbiamo bisogno di un qualche lavoro idraulico, possiamo farlo da soli o chiamare un idraulico privato, così anche la città, per far funzionare le sue infrastrutture e mettere a disposizione il servizio dei cittadini, può far da sé attraverso una struttura pubblica, oppure decidere di rivolgersi al mercato dei servizi, oltretutto attraverso una amplissima gamma di soluzioni contrattuali diverse, che nel libro ho provato un po' a illustrare. Quindi, ecco, l'idraulico per definizione non si occupa di acqua, ma si occupa dei tubi. Sta dicendo che qui la questione... Di impianti, ovviamente si occupa anche di acqua, nel senso, certo, che i tubi servono a trasportare l'acqua nelle nostre case, e poi non dimentichiamocelo, perché non si parli solo di oro blu, ma anche di oro marrone, anche a portarle via e a depurarle prima che finiscano a inquinare i fiumi, e questa seconda è la parte forse più costosa e problematica del servizio idrico. Quindi gestione delle acque reflue, gestione dei fanghi, gestione di tutto quello che segue diciamo all'uso che noi facciamo dell'acqua nelle nostre case. L'acqua rimane nostra, l'acqua è un bene comune in quanto risorsa, il diritto di accesso all'acqua è un diritto fondamentale, il diritto di accesso al servizio che recapita l'acqua è a sua volta un diritto fondamentale, quindi siamo nella logica del servizio pubblico a tutti gli effetti, come se stessimo parlando di sanità, come se stessimo parlando di scuola, come se stessimo parlando di elettricità o di ciò che fa parte di quel pacchetto di beni essenziali che assicurano la vita dei cittadini. Questo è fuori discussione ed è il soggetto pubblico in ogni caso a dover presidiare e tutelare questo diritto, trovando però il modo di offrirlo ai cittadini nel modo più efficiente e meno costoso possibile. Ovviamente non significa né che il privato sia la soluzione, né che il pubblico sia la soluzione. Ecco, a proposito di questo, professore, sì, pubblico o privato, questo è forse un altro dei un po' delle leggende metropolitane, nel senso il pubblico va male per forza, il privato rende. Vediamo anche sui dati che lei riporta sugli acquedotti. L'Italia è veramente una complessità di differenze, come dire, all'altezza della sua reputazione. Allora, se si parla di litri raccolti e litri persi per strada, la media italiana per ogni 100 litri raccolti è di 47 persi circa, ma le differenze appunto sono enormi. Basta citare Milano, quindi una grande città dove se ne perdono 11 su 100, quindi non è affatto detto che si debba essere inefficienti laddove c'è il pubblico. Io non sono così d'accordo nell'utilizzare l'indicatore delle perdite come sinonimo di efficienza o inefficienza, perché il discorso sarebbe lungo, quindi comunque forse non è il caso di affrontarlo. Non è un buon parametro. Comunque, insomma, perché diciamo che l'acqua che viene persa dai tubi ritorna in falda, quindi dove l'acqua viene dalla falda non è necessariamente un male se ritorna e quindi rientra, ecco, ma comunque non vorrei aprire questo capitolo, questo dossier diciamo. Comunque l'affermazione che lei ha fatto è giusta, nel senso che non ci sono evidenze empiriche che dicano che premino un modello di gestione piuttosto che l'altro, sotto il profilo né della qualità del servizio reso, né dei costi di questo servizio, né della qualità, diciamo, né tecnica né commerciale, perché poi, cioè, non dimentichiamoci che il servizio idrico non è soltanto erogazione dell'acqua, ma è anche gestione di tutti i rapporti con gli utenti, e anche questa è una caratteristica importante che sta a cuore ai cittadini, intendo dire puntualità nelle risposte, accessibilità delle informazioni e cose del genere. Questo non solo in Italia, ma in tutto il mondo, nel senso che in tutto il mondo abbiamo ormai una quantità enorme di dati su gestioni che sono state affidate in vario modo al contributo privato, e non ci sono elementi per pensare né che queste siano in generale più efficienti di quelle pubbliche, né meno efficienti di quelle pubbliche. Non c'è nemmeno peraltro l'evidenza che la gestione privatizzata abbia portato allo sfruttamento di un potere di mercato ai danni dei cittadini, perché la chiave di volta qui non è tanto la proprietà del sistema, ma la qualità della regolazione. Dove c'è una buona qualità della regolazione, quindi dove il pubblico si fa bene il suo mestiere, sia la gestione pubblica sia la gestione privata funzionano meglio. Dove il pubblico invece è in maggiore ambasce, diciamo, la gestione privatizzata può avere magari più possibilità di catturare il regolatore costringendolo ad accettare per esempio tariffe più alte, cose del genere, ma anche le gestioni pubbliche a loro volta soffrono di livelli di inefficienza molto grandi. Quindi credo che la contrapposizione fra pubblico e privato, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto quello della qualità del servizio, sia un modo fuorviante di porre il problema alla luce dei dati. Ecco, alla luce dei dati, lei dedica peraltro un capitolo, proprio lo esplicita, a quelli che ne dedica parecchi, ai dati, all'informazione, alla legislazione in materia. Poi però arriva a un punto in cui dice, è il momento di fare delle proposte. Allora, alla luce dei dati, la sua riflessione su un settore che studia da anni, qual è? Quale dovrebbe essere la strada? Ma allora, la strada secondo me è quella di un riformismo vero. Non confonda il significato della parola riforma con quello della parola rivoluzione. E mi spiego. Secondo me sia la politica proposta dalla legge Ronchi, sia quella proposta dal fronte referendario configurano una trasformazione molto radicale di quello che sono gli assetti che si sono molta fatica costituiti negli ultimi 15 anni dopo la riforma del 94 della cosiddetta legge Galli. Nel primo caso, perché mandare tutti a gara significa in buona sostanza azzerare buona parte delle gestioni esistenti e farle ripartire da zero, farle ripartire da capo, e nel secondo caso perché si mira al cuore proprio della logica della riforma, che era quella che puntava su una gestione industriale autofinanziata dalle tariffe con il contributo della finanza di mercato, eccetera. Io credo che il meccanismo si fosse messo in moto con molta fatica, ma comunque si fosse messo in moto, e richiedesse una manutenzione straordinaria, passatemi il termine, piuttosto che una radicale trasformazione. Io quindi il tipo di proposte che vengono esplicitate nel mio libro vanno in direzione di una riforma nella continuità, quindi in qualche cosa che non vada a stravolgere l'assetto che si è fin qui costituito, ma ne puntelli quelli che sono i punti deboli, e principalmente, secondo me, il punto debole principale dell'assetto italiano di oggi è proprio quello della regolazione. E quindi io vado nella direzione di proporre un assetto di regolazione un pochettino più organico, un pochettino più incisivo, dove le funzioni di regolazione pubbliche che spettano al pubblico sono allocate e gestite in modo più efficace. Ecco, a proposito di risorse, quindi di soldi, all'interno di questa vicenda un numero torna frequente, è quello che dice 60-64 miliardi, insomma la cifra che servirebbe per gli interventi di ristrutturazione della rete. Questo naturalmente, come dire, viene visto dalle parti anche come un po' l'elemento del contendere, chi mette le mani su questa grande ristrutturazione. Allora, dico subito che i 60 miliardi di euro derivano dalla somma delle liste della spesa che hanno fatto i circa 90 enti d'ambito italiani. Il territorio italiano è diviso in 90 ambiti territoriali intercomunali, ciascuno di questi ha pianificato la spesa che ritiene necessario fare, e appunto sommando tutti questi piani si arriva a circa 60 miliardi di euro. Dico subito che per quello che mi riguarda io ho fatto delle stime mie e che arrivano a dire che quello che servirebbe in realtà è il doppio, addirittura il triplo, per poter mandare veramente in equilibrio le gestioni senza che i nostri figli si trovino a dover pagare costi extra per gli investimenti che non abbiamo fatto noi. Quindi si tratta, quindi i 60 miliardi di euro sono addirittura una stima prudenziale. Non si tratta di mettere le mani, ma si tratta di capire da dove vengono fuori, perché è chiaro che è un po' come se uno, se un privato cittadino dovesse ristrutturare la sua casa, o lo fa con i soldi che ha risparmiato, o lo fa chiedendo un mutuo alle banche, e se chiede un mutuo alle banche chiaramente dovrà poi trovare il modo di restituirglielo, e lo potrà restituire soltanto se negli esercizi futuri genererà una differenza tra stipendio che guadagna e costi normali della sua vita, tale da potergli permettere di pagare la rata del mutuo. Collettivamente per il servizio idrico è la stessa cosa, nel senso che tutte le gestioni, sia pubbliche che private, se non vanno in fiscalità generale, e non ci possono più andare perché vogliono dire a Tremonti che deve cacciare 60 miliardi di euro della fiscalità al generale, minimo. Quindi qualsiasi gestione pubblica o privata, voglio dire, dovrà andare in banca, dovrà andare sul mercato a reperire queste risorse e le dovrà quindi in qualche modo restituire e remunerare. Questo vuol dire che la differenza fra tariffe e costi di gestione dovrà consentire quei margini operativi che sono necessari a ripagare i debiti. Questo vale per qualsiasi azienda. E vale per tutto, non solo per l'acqua. Privati dell'acqua, lo ricordo, Antonio Massaruto, che ringrazio di essere stato con noi questa sera. Di sicuro tutto meno che una vicenda semplice. Naturalmente è un tema su cui torneremo, su cui cercheremo di dare il nostro contributo di approfondimento, perché se c'è una cosa sicura è che l'acqua riguarda tutto, interessa tutto, e non necessariamente, diciamo, le soluzioni apparentemente più semplici, più facili da comunicare anche attraverso i media, sono poi quelle giuste. Grazie ad Antonio Massaruto di essere stato con noi e buonasera. Buonasera a tutti e grazie della chiacchierata. 30 minuti in cronaca finisce qui, grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a voi che ci avete ascoltato, una buona Pasqua a tutti.